il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige. A cura di Emanuele Cenghiaro. Si possono coltivare le piante riducendo l'uso dell'acqua e si possono mangiare gli ortaggi aumentando la qualità? Forse si può. Ne è convinta ad esempio la Fondazione Eureka, un istituto di ricerca internazionale che sta sperimentando una coltivazione attenta al maggior utilizzo delle risorse e al rispetto dell'ambiente. E per farlo impiega un metodo di coltivazione particolare, quello omeodinamico, che oggi cercheremo di approfondire. Abbiamo infatti con noi il professor Enzo Nastati, presidente dell'Istituto Eureka e ideatore di questo metodo di coltivazione. Buonasera. Professor Nastati, la prima cosa che le vorrei chiedere è che cosa si intende per agricoltura omeodinamica. Allora, è nata quando c'è stato il disastro di Chernobyl, quando ho visto che non c'era nessun rimedio per migliorare la salute delle piante a causa della radioattività, e ho fatto il primo prodotto a base omeopatica della mia vita. L'ho spruzzato sulle piante e siamo riusciti a togliere il 40% di cesio. Da quel giorno ho deciso che mi sarei occupato sempre di questo. Quindi abbiamo sviluppato un metodo agricolo su base biologica che però sfrutta o utilizza i messaggi sottili, ossia noi attraverso l'omeopatia svegliamo nella pianta delle qualità che ha ma che normalmente sono silenti. Come dire, io posso avere un talento musicale, non ho tempo per esercitarlo e quindi più che sentire un CD o fischiare non posso far altro. Quindi noi andiamo a stimolare il DNA presente ma silente. Questo è il metodo omeodinamico. Quindi parliamo di omeopatia e biodinamica. Sì, omeopatia e biodinamica, la sintesi tra le due. Senta, voi non meno di un mese fa avete presentato i risultati di una sperimentazione condotta all'ecovillaggio La Nuova Terra di Codroipo, che è in provincia di Udine. Queste prove hanno dato ottimi risultati a quanto pare, e sia sulla riduzione dei nitrati ma anche sul risparmio nell'utilizzo dell'acqua. Ho letto fino al 75% in meno. Com'è possibile ottenere questi risultati? Noi usiamo due variabili. La prima variabile è appunto risvegliare nella pianta il DNA, il gene della resistenza al secco, che dicendo una semplicità, il cactus sa benissimo attivare questa sua qualità. L'insalata non lo attiva ma ce l'ha. Quindi noi risvegliamo questa qualità silente. Per chi non è addentro nei lavori, una pianta esprime al massimo il 30-40% del suo DNA, quindi ce l'ha, bisogna solo che risvegliarlo. E questo è il metodo lavorando sul seme e sulla pianta. Dall'altra parte abbiamo lavorato sulla qualità dell'acqua, perché quando l'acqua passa per un tubo nero liscio, che sono i tubi normali di irrigazione, questa monotonia, diciamo, di scorrimento, come si suol dire, uccide, toglie la capacità vitale all'acqua, quindi l'acqua bagna di meno. Noi usiamo un sistema di rivitalizzare l'acqua, quindi un'acqua rivitalizzata può migliorare, ossia ridurre il fabbisogno di un 20-30-40%, a seconda anche altre variabili. Mettendo insieme le due variabili, quindi messaggio sul seme di risveglio dei geni silenti e miglioramento della qualità dell'acqua, si può arrivare a una riduzione di adacquamento dal 50-60-70%, e poi stiamo lavorando adesso per arrivare all'80-90%, tanto per dire, se il confine non è ancora arrivato. Anche sui nitrati, che ricordiamo sono il cibo insomma della terra. Sì, il nitrato è un problema non da poco, perché quasi tutte le verdure accumulano questi nitrati, soprattutto in certe condizioni climatiche, sole ad esempio, e secondo il tipo di concimazione. Sono stati comparati quattro metodi agricoli e il nostro è risultato il migliore, come minor presenza di nitrati. Ricordiamo che i nitrati sono appurati cancerogeni, quindi non è uno scherzo. Benissimo, facciamo una breve pausa, a tra poco. Il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. Oh, wow. Torniamo in linea con la trasmissione Il Quadrifoglio. Oggi stiamo parlando del metodo di coltivazione omeodinamico con la persona che lo ha ideato, il professor Enzo Nastati dell'Istituto Eureka. E voi state proseguendo su queste sperimentazioni, su che cosa vi state indirizzando? Stiamo lavorando sul miglioramento dei campi elettromagnetici e abbiamo proprio concluso in questi giorni una prima serie di esperimenti che ha durato 9 mesi. Noi utilizziamo la pianta, la dracena, che ha una capacità di dialogare, diciamo, con i campi elettromagnetici. Abbiamo creato una postazione tipo ufficio, computer, stampante, eccetera. Abbiamo messo una dracena e abbiamo inserito il nostro prodotto a base omeopatica per attivare, stimolare questa capacità naturale della dracena. Morale, per 1,5 metri di raggio e intorno alla dracena tutto è free, come si dice, libero da campi elettromagnetici. Quindi per le postazioni di ufficio, casa o altro, c'è un modo per liberare l'ambiente. Quindi mettiamo ancora una volta insieme il messaggio della pianta, dico la dracena, e la stimolazione a questa capacità particolare che è la dracena di, come dire, digerirsi e assorbire i campi elettromagnetici. Questo è un risultato che faremo anche un convegno verso marzo, che penso sarà molto importante. Ecco, tornando un attimo al tema dell'acqua, questa riduzione dell'utilizzo di acqua, forse è importante, può aprire anche delle nuove prospettive, visto che l'acqua è una delle tematiche del futuro e dei possibili problemi del futuro per l'agricoltura in zone problematiche, non so, penso in certe zone del sud Italia, l'Africa, può essere una delle soluzioni, cioè questa, l'agricoltura omeodinamica può essere anche utilizzata in maniera estesa poi come una possibilità anche per combattere alcuni dei problemi nel mondo? Benissimo, mi permetto di dire che questo è proprio il nostro scopo. Più si lavora in grande, più il metodo funziona. E il problema è avere una cellula sana in mezzo a cellule malate, quindi più si lavora in piccolo e più il fattore esterno agisce sulle nostre piante. Ma se comincia ad avere superfici grandi, e per grandi intendo il minimo sono 1,000 metri quadri, ma abbiamo aziende anche di centinaia di ettari che applicano il metodo, tutto questo funziona sempre meglio. Io ultimamente sto proprio parlando Tunisia, Senegal e cose di questo tipo per esportare il metodo, quindi desertificazione. L'ultima domanda che le faccio è dove poter avere informazioni su quello che voi fate, se esiste un sito internet? Sì, in internet il nostro sito è dimensione-eureka.it, dimensione-eureka.it, Eureka con la K. La ringrazio di queste informazioni e ci terremo informati sulle vostre nuove, sui risultati, perché ci sembrano delle ricerche veramente interessanti. Bene, grazie. E che tutto sia a favore della vita. Grazie a voi. E passiamo adesso alle consuete notizie. La prima ci fa particolarmente piacere. Le Nazioni Unite hanno nominato il 2014 Anno Internazionale dell'Agricoltura Familiare per porre in risalto l'enorme potenziale degli agricoltori a livello familiare nella lotta alla fame e per la preservazione delle risorse naturali. Si calcola che nel mondo vi siano 500 milioni di imprese agricole a conduzione familiare e in molti paesi in via di sviluppo esse arrivano all'80% del totale. Il direttore generale della FAO, José Graziano da Silva, ha sottolineato come l'agricoltura familiare sia ciò che più si avvicina al paradigma della produzione alimentare sostenibile. Gli agricoltori familiari, infatti, si occupano di attività agricole non specializzate e diversificate che conferiscono loro un ruolo centrale per la sostenibilità ambientale e per la conservazione della biodiversità. È quindi un elemento fondamentale per migliorare la sicurezza alimentare e preservare le risorse naturali. Torniamo nel Veneto. Sono già disponibili i primi dati del report di Veneto Agricoltura sull'andamento del 2013 nella nostra regione, che verrà presentato domani. Si delinea una crescita di mais e soia in forza soprattutto della clemenza del clima nella seconda parte dell'anno. Male invece la raccolta dei cereali autunno-vernini come il frumento, che ha subito le continue piogge del primo semestre. Sul versante agroalimentare lo scenario sembra virare in campo quasi completamente negativo. Diminuisce infatti il numero delle imprese agricole, meno il 6,3%, quelle dell'industria alimentare e anche il numero degli occupati in agricoltura. Parliamo ora di vino. Il primo amarone che può fregiarsi della DOCG, quello dell'annata 2010, debutterà ufficialmente sul mercato dopo i 3 canonici anni di maturazione in occasione di anteprima amarone 2010, il 25 e 26 gennaio 2014, nel Palazzo della Gran Guardia di Verona. Per l'occasione verrà presentato anche il nuovo marchio del consorzio. Per il pubblico ingresso a pagamento euro 25 su invito, da richiedere all'indirizzo internet info@consorziovalpolicella.it nel pomeriggio di sabato 25 gennaio e per tutta la giornata di domenica. Si parlerà di vino anche a Lonigo, dove parlerà in particolar modo di export di vino veneto nel 2013 e delle opportunità offerte dal mercato cinese. E questo incontro si terrà il 22 gennaio a Lonigo, alla cantina dei Colli Iberici, gruppo Collis, durante un incontro organizzato da Europe Direct Veneto con inizio alle ore 10. Anche per questa settimana è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima con il Quadrifoglio, ci potete riascoltare in podcast sul sito internet www.bluradioveneto.it. Avete ascoltato Il Quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili, quattro elementi per la nostra vita, in collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige.